sé peki. Ave la vestisce ta caccia mamma malerita. E allora torniamo in diretta, sempre la maratona in corso, 24 ore di trasmissione di femministe e lesbiche in Italia, in Europa e nel mondo. In questo caso con la corrispondenza di adesso ci spostiamo a Londra. Ciao. Ciao, ciao Londra. Ciao a tutte, è una sera che fa molto strana perché questo ho ascoltato il martedì fino alle 4 di notte, mi sono addormentata e mi sono risvegliata con le voci del martedì appunto della rassegna stampa che andava in onda, quindi mi sto facendo anche una 24 ore. Guarda, cuore e mente con voi. Ok, però la voce diciamo va e viene, il cuore e la mente non abbiamo dubbi, ti dobbiamo richiamare forse, o sei in un posto dove prende male, ti puoi spostare? Sì, mi sposto da qui perché mi sono messa in una stanza, sono al lavoro in questo momento. Allora, mentre tu ti muovi nello spazio alla ricerca di un segnale del telefono, noi ricordiamo che lo spazio con te parleremo delle Olimpiadi a Londra e in particolare della silenziosa resistenza delle lavoratrici dell'industria del sesso. Allora, sì, appunto, dicevo, in questo momento sono al lavoro dal 2009 in una clinica per la salute sessuale delle sex worker che si trova a nord di Londra, proprio uno dei quartieri limitrofi dei quartieri che parteciperanno alle Olimpiadi, quindi siamo direttamente collegate con gli effetti della repressione che si sta attuando ormai dal 2010. In questo momento diciamo che vorrei però parlare come Crosstalk. Crosstalk è un gruppo di sex worker e ex sex worker. Sex worker significa persone che lavorano nell'industria del sesso in diverse sfaccettature, che appunto possono essere dal lavoro nei bordelli, negli appartamenti o nelle saune, alla telefono, le linee erotiche, al lavoro nei club. E, diciamo che in questo momento e soprattutto il prossimo martedì è stato indetto da Crosstalk un incontro aperto pubblico che vuole presentare appunto una moratoria. Questa moratoria ha come oggetto in particolare gli arresti che ci sono stati appunto negli ultimi due anni a Londra nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori. Diciamo che in questo caso parlo di lavoratrici perché sono anche la maggioranza, però ci sono appunto lavoratori e persone trans che lavorano nell'industria del sesso. Quindi appunto diciamo che noi ci siamo sempre, sono una voce conosciuta del martedì, quindi non mi presento come Ava Caradonna, che appunto è questo nome collettivo che si dà ognuna e ognuno nel collettivo Crosstalk. Crosstalk fa questa cosa, organizza classi di inglese per le lavoratrici nell'industria del sesso. Quindi in questo momento c'è una classe di inglese per le ragazze nei club, che appunto però è all'interno di un pub, di un luogo che appunto non ha nessuna connessione con il sex work. E un'altra invece classe che è all'interno di una fauna di Londra, che è una delle più grandi saune di Londra. Quindi siamo in diretto collegamento con le lavoratrici e le ragazze che lavorano nell'industria del sesso. In questa moratoria noi spieghiamo innanzitutto come, cioè in breve ovviamente, poi magari ci possiamo anche ritornare, come appunto i governi, le istituzioni, gli organi istituzionali creano prima delle Olimpiadi il caso, quindi il caso in cui 40.000, come per esempio ci sono appunto documenti in cui si spiega, ci sono appunto dati in cui c'è la polemica, il polverone iniziale prima delle Olimpiadi, come nel caso del Sudafrica o della Germania, perché ho dei dati qui davanti. Che sto leggendo, in cui si diceva 40.000 persone verranno trafficate e poi ci sono soltanto una bassissima percentuale di donne trafficate. Quindi questo che cosa permette però? Questo denunciare il traffico il traffico di donne. Permette innanzitutto una legislazione, come nel caso appunto dell'Inghilterra, in cui nel 2010 si è legiferata questa legge antitraffico, che permette, da molti più poteri alla polizia, di irrompere e di fare raid negli appartamenti, per qualsiasi motivo, anche per motivi i poliziotti sono sospetti di qualcosa, possono entrare e essendo sospetti di qualche cosa irregolare, possono chiudere il flat. Cioè con il solo sospetto che qualcosa non vada, possono... Sì, con il solo sospetto possono chiudere. Quindi a discrezione del singolo agente, diciamo. Sì. Ma quindi, sì. Ciao Tiziana, ci stai dicendo quindi che c'è questa legge contro il traffico, ma di fatto di traffico se ne è occupata poco, ho capito bene? Se ne è occupato poco, ma diciamo questo, che le leggi antitraffico che cosa fanno? Fanno due cose in particolare, hanno l'obiettivo innanzitutto di rinforzare lo stigma della vittimizzazione della donna che lavora nella sex industry, nell'industria del sesso, e quindi la trattano come vittima all'interno di questo, e quindi non danno delle condizioni di lavoro per cui una donna può decidere o no se lavorare nell'industria del sesso. Dall'altra parte è una legge che controlla e controlla in maniera totale la migrazione. Il target principale di questa legge sono le persone senza documenti, o sono le donne che non sono, perché ci sono due all'interno della migrazione, anche all'interno dei documenti o non documenti, cioè ci sono anche delle scale di gerarchia dei migranti. Ossia, per esempio, per quanto riguarda le persone che vengono dalla Romania e dalla Bulgaria, ossia le due nazioni che sono in Europa dal 2007, ci sono moltissime restrizioni per lavorare in Inghilterra. Il che significa che per qualsiasi motivo possono essere arrestate e gli può essere dato il foglio di via. Quindi che succede in questo caso? Che con questa legge, con la repressione e la gentrificazione, perché non bisogna anche dire che appunto le Olimpiadi che cosa fanno? E questo lo fanno appunto, c'è un meccanismo che è molto simile in tutti gli stati che ospitano le Olimpiadi. Innanzitutto c'è una forte gentrificazione, una forte speculazione all'interno del territorio, e ovviamente queste due cose che cosa portano? Portano alla pulizia delle strade e al decoro. Che cosa è successo nel 2010? Vado molto veloce perché purtroppo non abbiamo tempo, volevo dare una... Poi nelle prossime settimane sicuramente aggiorneremo questo argomento. Comunque sì. Apprezziamo lo sforzo. Se ne parla e si inizia la campagna appunto dal prossimo martedì. Quindi che succede in questo caso? Ci sono cinque quartieri a nord-est di Londra che sono coinvolti nelle Olimpiadi. è successa questa cosa, che innanzitutto c'è stata una forte riqualificazione, appunto la riqualificazione, lo sappiamo che cos'è, la facciata, appunto la forte riqualificazione del quartiere significa anche forte speculazione, compravendita degli immobili, cacciata delle persone più povere ovviamente, e soprattutto appunto la repressione che noi abbiamo visto esplodere con i riot appunto da Tottenham, mm-hmm. dove appunto lavoro. Perché questo? Perché questa velocissima riqualificazione, che cosa ha portato? Una repressione fortissima nelle strade, una presenza quasi militarizzata nelle strade, una repressione fortissima all'interno appunto della dell'industria del sesso, quindi raid ovunque, le ragazze sono completamente, ogni volta che andiamo nei flat, che andiamo negli appartamenti, appunto perché con la clinica andiamo e facciamo safe sex, diamo dei consigli sulle infezioni e sul sesso più sicuro. Sono assolutamente impaurite da questo, perché i raid sono violentissimi, i poliziotti chiudono i flat e arrestano la gente, e quindi questo che cosa provoca? Innanzitutto un isolamento fortissimo, perché i flat non vengono più pubblicizzati nei giornali, non accettano più persone che vanno direttamente appunto nei flat, quindi noi abbiamo molta difficoltà nel raggiungere le ragazze, e l'altra cosa appunto, non pubblicizzando, abbassano i prezzi, il che significa che se io lavoro nell'industria del sesso è per i soldi, cioè non è che perché ho l'esperienza, la maggior parte delle ragazze che appunto, le ragazze, le donne, le madri che lavorano nell'industria del sesso lo fanno perché hanno bisogno di soldi, o hanno bisogno di soldi, oppure perché hanno bisogno di soldi e di lavorare meno molto spesso. Le madri a Londra purtroppo non possono permettersi di lavorare 10 ore al giorno per pagare l'affitto e con bambini e stando da sole. Quindi molto spesso si trovano anche queste situazioni in cui appunto ci sono dei compromessi di questo genere. L'altra cosa però, che cosa succede? Abbassando il prezzo si guadagna di meno, quindi condizioni di lavoro e di sfruttamento molto più alte. E l'altra cosa, non ci sarà mai una donna che denuncia una violenza. Quindi è successo questa cosa, per esempio, che durante ci sono state una serie di violenti furti e di violenti furti di gang, di persone che girano nei flat, perché appunto sono flat isolati che soltanto in pochi sanno, l'isolamento che porta appunto a una maggiore fragilità, e certo. ovviamente questo ha una maggiore violenza, che quello che si chiede con questa moratoria è appunto di sospendere almeno fino alla fine delle Olimpiadi gli arresti all'interno degli appartamenti, e soprattutto appunto anche un'altra cosa fondamentale, la deportazione, la detenzione per le persone senza documenti. Ovviamente questa cosa non credo che verrà, cioè nel senso che sarà una campagna molto molto dura. Per esempio un'altra campagna che si è fatta, perché uno delle aree, dei quartieri che coinvolti nelle Olimpiadi, Hackney, avevano cercato di far chiudere i club di strippers, di striptease che ci sono ad Hackney appunto lo scorso anno ad aprile. Centinaia di ragazze che lavorano in questi club si sono appunto organizzate, abbiamo fatto una campagna per non far chiudere i club. Come risposta, i club ancora ci sono, però è una parziale vittoria, perché una delle condizioni è stata che ci deve essere maggiore controllo di fronte ai club, quindi con telecamere, telecamere all'interno del luogo di lavoro, perché appunto non ci deve essere nessun palpeggiamento ed altro. Ovviamente se sto nei club non è che vendo saponette vestita da, da coniglietto, quindi cioè, ovviamente il, anche in questo caso c'è stato sì il, la, la possibilità di continuare a lavorare, ma un abbassamento della, del business, del, del guadagno all'interno del luogo di lavoro, quindi cioè, questa è, la, è l'altra parte della, della medaglia. Diciamo che per io avrei un po' finito, anche perché forse sono le 1:20 e mi avete dato 10 minuti, io ho condensato tutto. Sei stata appena perfetta, guarda. No, no, bene, infatti c'è da riflettere quando ci sono questi appunto grandi eventi, poi quello che succede intorno a questi, sia di interesse che di repressione, ai noi, insomma, è una cosa che si è verificata anche in altre città che hanno ospitato eventi così grossi, ma Londra sarà un'occasione ulteriore per ricordare, insomma, queste cose e testimoniarle. Quindi senz'altro, Tiziana, con te ci sentiamo nelle prossime settimane e parliamo, continuiamo ad aggiornare, sì, su questo. Assolutamente, continuiamo magari ad aggiornare su, su questa cosa, continuiamo a parlare anche appunto di delle, dell'industria del sesso, della, del, e soprattutto della, della composizione dell'industria della, de, delle donne che fanno parte dell'industria del sesso. Una cosa fondamentale che io vorrei ribadire in questo contesto, con, nel, appunto nella 24 ore della giornata de, della giornata per de, delle donne, è un invito a tutte le donne appunto di saper riconoscere le altre, di saper appunto di non andare per pregiudizi e schemi, ma di saperle riconoscere, di saper creare delle relazioni e nelle relazioni trovare appunto quel contropotere che, cioè, che cerchiamo da, da sempre. E sì, questo è fondamentale anche per le donne appunto che lavorano nel, nella, nell'industria del sesso, che molto spesso si trovano, soprattutto in Inghilterra, queste due facce del femminismo, l'abolizioniste che appunto cercano di, che pensano che appunto la donna nel sex work sia l'oggetto della, dell'anca maschile, dall'altro mentre c'è, c'è una parte che come appunto Crosstalk che cerca di organizzare le donne che lavorano come lavoratrici nell'industria del sesso e di creare appunto delle relazioni che creano degli spazi di empowerment, di autodeterminazione. Certo, noi lo pensiamo, insomma, e questa giornata nasce anche da questa consapevolezza. Unite siamo molto più forti e quindi sì, dobbiamo guardarci reciprocamente, anche per noi è molto importante. E con questo pensiero propositivo, Tiziana, noi ti salutiamo. Tagliamo brutalmente la linea. Continua ad ascoltarci comunque, certo. Ovviamente è come se fossi con noi, ci puoi anche chiamare o scrivere mail durante la giornata. Va bene, un abbraccio da tutte, un abbraccio a tutte. Buona giornata e un saluto in particolare a tutte le donne che resistono, soprattutto le donne appunto che sono doppiamente isolate, però doppiamente resistenti, dal migranti che subiscono appunto il razzismo istituzionalizzato. E soprattutto anche a tutte le donne che sono rinchiuse nelle gabbie, in qualsiasi gabbia, dalle prigioni ai centri di detenzione per migranti. Ci associamo a te col saluto e allora un abbraccio e a presto. Ciao. Ciao.